I modelli alternativi della partnership e della dominanza. I colpi d'arma da fuoco non sono una minaccia soltanto per i piccoli bonobo, stanno tragicamente mettendo in pericolo l'intera specie. Gli scimpanzé nani dello Zaire sono stati cacciati senza requie. Solo il popolo Mongandu li ha risparmiati, perché secondo le sue leggende i bonobo, gli antenati degli esseri umani, vivevano un tempo come fratelli. Popolazioni abbastanza numerose restano solamente in poche zone, quali per esempio le foreste dell'Omako e di Vamba. Lo sterminio dei bonobo costituirebbe una perdita terribile, non solo in sé, ma anche per via di quanto la loro osservazione suggerisce per una teoria multilineare o pluralistica sugli ominidi e le origini dell'umanità. Perché gli scimpanzé non sono soltanto i nostri parenti più stretti a livello di cromosomi. Come nota Zillman, le misurazioni dei primi fossili di ominidi indicano che le loro proporzioni corporee sono più simili a quelle degli scimpanzé nani che a quelle di qualsiasi altra scimmia. Non pare dunque impossibile che la struttura sociale di questi animali, così vicini alla nostra specie, sia simile sotto certi aspetti a quella dei nostri antenati ominidi. Ma una volta ancora, non credo che la struttura sociale dei bonobo debba ora essere presa come il modello dell'evoluzione degli ominidi. Come ho già osservato, io formulo qui l'ipotesi che molto probabilmente esistevano più tipi di ominidi e di organizzazioni sociali umane primitive, con alcuni gruppi più orientati verso la configurazione della partnership e altri più orientati verso quella della dominanza. Vorrei inoltre suggerire che una comprensione di queste configurazioni contrastanti consente di vedere le diverse strutturazioni, e non solo differenze casuali, nell'organizzazione sociale non soltanto degli esseri umani, ma dei nostri più stretti parenti genetici, lo scimpanzé comune e lo scimpanzé nano. Perché se riesaminiamo da questo punto di vista nuovo l'organizzazione sociale dello scimpanzé comune e dello scimpanzé nano, quelle che a prima vista possono apparire differenze puramente casuali si strutturano poi in modi specifici e riconoscibili. Sebbene l'organizzazione sociale dei bonobo non sia priva di aggressività e tensioni, in essa, se la si paragona con l'organizzazione sociale degli scimpanzé comuni, si rileva un minor grado di violenza istituzionalizzata, volta a mantenere gerarchie e privilegi basati sulla paura e la forza, e una maggiore fluidità sociale accompagnata da comportamenti umanitari. Ancora una volta, con questo non si vuole dire che tra i bonobo non esistono gerarchie. Come già osservato, le società orientate sul modello della partnership non sono prive di ordini sociali, ma come scrive De Waal, mentre per molte specie un meccanismo fondamentale per evitare continui spargimenti di sangue pare essere il mantenimento delle gerarchie dominanti mediante la paura e la forza, cioè la minaccia di dolore corporale, di frequente i bonobo usano il piacere del corpo e non il dolore per evitare tensione e violenza. A tale riguardo, sebbene esistano sicuramente anche legami affiliativi basati sull'interazione non violenta e reciprocamente piacevole tra gli scimpanzé comuni, è stato osservato con maggiore precisione un altro aspetto della loro organizzazione sociale, che mette in luce modelli di violenza di maschi contro altri maschi e anche contro femmine piccoli, così come comportamenti più aggressivi e meno disponibili alla condivisione. Pertanto, la loro, che è indubbiamente una società rigidamente dominata dal maschio, autoritaria e cronicamente violenta, il modello della dominanza, presenta in numero decisamente inferiore gli elementi di partnership che compaiono nell'organizzazione sociale degli scimpanzé nani. Fatto ancora più significativo in questi due gruppi, le relazioni di genere si configurano in modo assai differente. Tra gli scimpanzé comuni, i vincoli sociali primari si stabiliscono tra maschi, con legami affiliativi di gran lunga meno numerosi fra femmine maschi e tra femmine femmine. Per contro, tra i bonobo, i vincoli sociali primari uniscono femmine maschi e femmine tra loro, con forti indicatori, come osservano Parrish, Smuts e Richard Wrangham, del fatto che le coalizioni femminili svolgono un ruolo importante nella prevenzione del predominio maschile. In effetti, a differenza di quanto accade tra gli scimpanzé, neanche le femmine piccole sono dominate dai maschi nella società dei bonobo. In modo altrettanto significativo, come Wrangham mette efficacemente rilievo nella comparazione tra la sessualità dello scimpanzé comune e quella del bonobo, in questi due gruppi anche i rapporti eterosessuali e omosessuali seguono modelli molto diversi. Come commentava Kano, non senza una certa dose di sorpresa, tra i bonobo gli elementi di predominio non entrano nell'attività sessuale. E come abbiamo visto, qui troviamo anche rapporti etero e omosessuali associati con la condivisione del cibo e con la sostituzione del piacere sessuale all'aggressività violenta. Ripetiamo che non si intende dire che i bonobo non ricorrono mai alla forza fisica o alla minaccia di usare la forza nelle loro relazioni. Per esempio, ho già osservato che le coalizioni fra femmine sono un fattore importante per contrastare l'aggressività maschile. Ciò implica anche la minaccia, talvolta l'uso, della forza contro i maschi da parte delle femmine. Ma come osserva Smuts, la cosa veramente interessante è che i rapporti sociali dei bonobo non sono lo specchio di quelli che si rilevano fra gli scimpanzé, dove l'equilibrio del potere favorisce i maschi. Di particolare interesse, come scrive Smuts, è il fatto che le femmine bonobo non usano il loro potere nel tentativo di subordinare i maschi in generale e in particolare non cercano di dominare la sessualità maschile. In effetti, il potenziale dominio sui maschi delle femmine sembra formare la base per l'emergere di rapporti sessuali relativamente egualitari. Dal punto di vista che sto qui sviluppando di una maggiore equità di genere, quale componente fondamentale di un'organizzazione sociale generalmente più egualitaria e pacifica, i rapporti sessuali più egualitari dei bonobo sono degni di nota. Altrettanto si può dire della istituzionalizzazione delle interazioni tenute insieme dal piacere fisico. È sicuramente istruttivo il fatto che l'assenza del predominio maschile, insieme con la più ampia condivisione del piacere erotico e del cibo, rilevata tra i bonobo, si ritrova presso i primati in una forma relativamente meno tesa e più pacifica di organizzazione sociale, che in una certa misura adombra quelle società umane più orientate sul modello della partnership che si svilupparono nell'arco di molte migliaia di anni nella lontana preistoria dell'Occidente. Ancor più affascinante è il modo in cui, in una forma rudimentale laica, l'esperimento evolutivo dei bonobo con la ritualizzazione del sesso quale strumento per ridurre e risolvere conflitti potenziali pare adombrare l'associazione della sessualità e del rituale religioso che troviamo in queste società preistoriche. Peraltro, detto tutto ciò, desidero insistere sulla mia premessa iniziale. Se osservare i comportamenti dei primati e le società dei primati è utile per tracciare i temi evolutivi e identificare i modelli ricorrenti, in particolare i modelli caratteristici di un'organizzazione sociale sul modello della dominanza o della partnership, gli esseri umani sono sotto molti aspetti importanti diversi dai primati. Sì, sotto importanti aspetti biologici, sociali, culturali e sessuali, noi siamo assolutamente unici. Sesso, evoluzione e scelta. In questo capitolo ho suggerito un'idea di evoluzione in quanto processo sperimentale in cui si ritrovano tuttavia modelli ricorrenti e temi evolutivi. Ho pure suggerito che l'evoluzione del sesso fu un fattore di estrema importanza nell'evoluzione di forme di vita sempre più differenziate, complesse e flessibili. A questo punto vorrei suggerire che l'evoluzione della sessualità umana, in particolare la specifica sessualità femminile, già in certa misura adombrata nei bonobo, fu un fattore fondamentale per il grande balzo evolutivo che portò all'ominide prima e all'uomo poi. In realtà, come approfondirò meglio, contrariamente a quanto ci è stato insegnato, la sessualità umana non è ciò che abbiamo in comune con le forme animali cosiddette inferiori. Al contrario, è quanto a pezzi e bocconi comincia a emergere fra i primati, in particolare i bonobo, per culminare negli esseri umani. Al di là di questo, vorrei suggerire che l'evoluzione della nostra capacità assolutamente unica di consapevolezza superiore, combinata all'evoluzione della nostra capacità unica di un prolungato piacere sessuale slegato dai cicli stagionali, assieme alle lunghe cure richieste dalla maturazione umana, offrirono il potenziale per un'importante rottura evolutiva verso una forma di vita veramente più evoluta, in senso normativo o connesso ai valori piuttosto che in senso descrittivo. Desidero sottolineare che quando dico potenziale non intendo nulla di più, poiché ovviamente grande è la variabilità dei comportamenti umani dell'organizzazione sociale. Per certo, non intendo dire, come Teilhard de Chardin, che l'evoluzione è il dispiegarsi di un qualche piano divino preordinato. In effetti, trovo ben strana la tesi di una divinità onnipotente, onnisciente, misericordiosa, giusta e amorosa, capace inoltre di progettare un mondo perfetto, che non ha evitato l'agonia e la brutalità di tanta parte della natura della vita. Trovo che abbia più senso pensare che il processo evolutivo sia fondamentalmente auto-organizzato e indeterminato. Ma nel contempo, a guardare l'intero arco della storia planetaria, si individua una sorta di spinta che attraverso prove ed errori si dirige verso quei tratti che nel linguaggio della spiritualità sono stati definiti più evoluti, tratti potentemente espressi nel nostro umano sforzo verso la bellezza, la verità, la giustizia e l'amore. E io credo che dietro a questo sforzo umano si collochi l'evoluzione, nella nostra specie, di due insiemi unici e correlati di equipaggiamento biologico. Le nostre capacità mentali, emotive e spirituali altamente sviluppate per il pensiero, il sentimento e quella che chiamiamo coscienza superiore, e le nostre capacità sessuali altamente sviluppate per il piacere tratto dal legame maschio-femmina, nonché femmina-femmine, maschio-maschio e adulto-infante, che insieme possono formare la base della nostra organizzazione sociale umana. In breve, come approfondirò nel corso di questo libro, io credo che contrariamente a quanto ci è stato insegnato, per esempio con le tante storie sulle lotte che gli uomini spiritualmente evoluti hanno dovuto ingaggiare contro la loro sessualità, la sessualità umana non è di ostacolo, ma è piuttosto di aiuto nella ricerca umana di una coscienza superiore e di forme di organizzazione più evolute e giuste a livello culturale e sociale. Per la verità, credo che, ben lungi dall'essere un istinto più basso o una pulsione inferiore, la nostra sessualità umana è parte di quello che potremmo chiamare una pulsione superiore, un elemento indispensabile di quanto rende umana la nostra specie. In proposito, sono interessanti le idee espresse sul sesso e la società dal biologo ungherese Vilmos Xányi, quando afferma, anche se nulla dice della spiritualità o di una consapevolezza superiore, che la sessualità umana favorisce una base biologica, un'organizzazione sociale strutturata sul dare e il prendere piacere e altri vantaggi reciproci. A differenza delle femmine di altri primati, sessualmente attive solamente per un periodo dell'anno, il 35% dell'anno nel caso degli scimpanzé comuni e il 75% nel caso dei bonobo, le donne possono essere sessualmente attive tutto l'anno. Inoltre, se altri primati sperimentano l'orgasmo, nel piacere sessuale umano esso appare di durata e intensità molto maggiori, senza contare che la femmina umana è capace di orgasmi multipli. Come sottolinea Xányi, tutto ciò è di grande importanza nel promuovere associazioni piacevoli più durature che incoraggiano la collaborazione tra i sessi. Associazioni che osservano i biologi Umberto Maturana e Francisco Varela sarebbero state ulteriormente facilitate dal complesso sistema del linguaggio, strumento di comunicazione unicamente umano. In effetti, come vedremo poi nel dettaglio, negli esseri umani i rapporti sessuali sono spesso accompagnati da un vincolo che si estende oltre il sesso e abbraccia la relazione nel suo complesso, con affetti quali il desiderio di vicinanza e comportamenti affiliativi quali premure reciproche e cura della prole. Xányi è convinto che ciò non creò solamente quello che Masters e Johnson chiamano un vincolo di piacere tra femmine e maschi, atto ad aumentare le loro possibilità di sopravvivenza, ma crebbe anche la possibilità di sopravvivere della prole, in quanto il piccolo dell'uomo dipende dalle cure degli adulti per un periodo di tempo assai lungo. Di conseguenza, Xányi argomenta che un'organizzazione sociale che incoraggia, invece di inibire rapporti sessuali e sociali più orientati sul modello della partnership tra femmine e maschi, sarebbe stata altamente adattiva agli albori dell'evoluzione umana. L'idea che la sessualità umana possa in realtà contribuire a predisporre la nostra specie un'organizzazione sociale e sessuale sul modello della partnership piuttosto che su quello della dominanza può suonare strana in un mondo in cui per migliaia di anni il modello della dominanza è stato primario. Ma contribuirebbe a spiegare come mai Le società contemporanee ancora dedite alla raccolta e alla caccia che in origine vivevano in ambienti relativamente ospitali come i bambuti, i kung e i tirurai, presentano un numero di elementi legati al modello della partnership superiore a quello della dominanza. Contribuirebbe inoltre a spiegare i dati tratti dall'archeologia e dal mito che esamineremo, secondo i quali, per migliaia di anni, nella grande corrente dell'evoluzione culturale dell'Occidente, le società preistoriche che nelle regioni più fertili del globo svilupperanno le più antiche civiltà sembrano essersi orientate primariamente sul modello della partnership piuttosto che su quello della dominanza. E contribuirebbe a spiegare come mai le immagini sessuali svolgono una parte tanto preminente nell'arte sacra di questa società e perché celebrano in particolare la sessualità della donna. Peraltro, che possano esserci nella nostra specie tratti che facilitano un'organizzazione sociale basata sulla partnership, non significa necessariamente che questa sia l'unica e in questo senso naturale possibilità. Per esempio, le società preagricole che vivevano in habitat assai duri, come una parte degli aborigeni australiani e gli eschimesi, che per la sopravvivenza contano più sulla caccia che sulla raccolta, presentano più elementi connessi alla dominanza che alla partnership. E i ritrovamenti archeologici che esamineremo indicano che durante la nostra preistoria le incursioni dalle regioni più aride del pianeta effettuate da tribù dedite alla pastorizia, molto bellicose, e a predominio maschile, interruppero l'evoluzione culturale di civiltà più orientate sulla partnership. Chiaramente, un modello della dominanza per i rapporti sessuali e sociali è un'alternativa possibile per la nostra specie, ma l'imposizione di questo modello richiede controlli interni ed esterni severissimi, e il suo mantenimento richiede in grande quantità paura, forza e dolore. Arriviamo così alla chiusura del cerchio, al fatto che la nostra è una specie caratterizzata da flessibilità e variabilità enormi. Siamo capaci di un'ampia gamma di comportamenti sessuali e sociali, e di tali comportamenti quello che esibiamo è in ampia misura una funzione della nostra organizzazione culturale e sociale, che è a sua volta in ampia misura una funzione di una serie di fattori interconnessi, quali per esempio l'ambiente fisico e la tecnologia, così come la costante interazione fra fattori biologici, sociali e ambientali. Ma, e ciò è particolarmente importante ai giorni nostri, è anche una funzione di un altro fattore importante sempre più riconosciuto, la scelta consapevole. Perché forse l'attributo più importante che distingue la nostra specie dalle altre forme di vita presenti sul pianeta è che in misura talmente maggiore quantitativamente da diventare un'importante differenza qualitativa, la nostra è una specie dotata di un'enorme capacità di scelta consapevole. Sono convinta che questa grande capacità umana di scelta consapevole a offrirci in questa nostra epoca di crescente crisi economica, ecologica e sociale la più grande speranza, non solamente di una vita personale e sessualmente più soddisfacente, ma della sopravvivenza della specie del pianeta. Ed è questo il motivo per cui ogni tanto si parla di rivoluzione delle coscienze, perché con la consapevolezza e la scelta arriva la possibilità del cambiamento. Per fare delle scelte, tuttavia, dobbiamo poter credere di avere delle alternative, e con la vecchia teoria unilineare dell'evoluzione, come con la storia dell'uomo cacciatore guerriero, ci è stato detto che per la nostra specie esiste un'unica scelta, il modello della dominanza. In questo capitolo abbiamo esaminato le prove che convalidano una visione multilineare o pluralistica dell'evoluzione e dunque confermano che sia per gli esseri umani, sia per gli altri primati, un'organizzazione sociale più orientata sul modello della partnership costituisce un'alternativa possibile. Nei prossimi capitoli continueremo a esplorare le possibilità umane esaminando l'evoluzione culturale e la sessualità in Occidente da questa prospettiva multilineare. Perché soltanto identificando e comprendendo meglio le nostre alternative potremo fare scelte personali, sociali e sessuali più consapevoli e adattive per il nostro futuro. Capitolo 3. Il sesso come sacramento. I doni divini della vita, dell'amore e del piacere. Nella cultura occidentale, l'arte religiosa incentrata sulle immagini sessuali risale a oltre 20.000 anni fa, al Paleolitico inferiore. Di quell'epoca ritroviamo la produzione di massa di sofisticati strumenti in pietra e in osso e una produzione altrettanto ampia e raffinata di dipinti e sculture. Uno dei temi ricorrenti in quest'arte ricca e copiosa è la sacralità del corpo femminile e più specificatamente, come già abbiamo intravisto, la sacralità della vagina, del seno e del ventre della donna. Potremmo dunque chiederci, vista l'entità delle immagini sessuali femminili nell'arte paleolitica, perché non ci sia mai stato raccontato nulla in proposito? Uno dei motivi è il tendenziale puritanesimo di molti degli studiosi che nell'Ottocento per primi osservarono questo materiale. Un altro motivo è che, come accade per la protostoria, fino a tempi assai recenti gli studiosi si sono mostrati inclini a concentrare la loro attenzione quasi esclusivamente su una metà dell'umanità, gli uomini, e a considerare tutto quanto attiene alle donne come tutt'al più una questione secondaria che non merita uno studio attento o approfondito. Di conseguenza, quando le immagini dei genitali femminili venivano riconosciute come tali, le si accantonava come mera pornografia, espressione di quella che uno scrittore pittorescamente definì immaginazione maschile irredenta. E di certo non si attribuiva a esse un grande interesse culturale. Solo gradualmente, superando enormi resistenze, tale tendenza cominciò a mutare e prese così a disvelarsi una visione tutta nuova dell'arte occidentale, che rimetteva in discussione molte precedenti interpretazioni di ciò che i nostri antenati consideravano importante o addirittura sacro. Una nuova visione dell'arte dell'era glaciale. In Europa, nelle grotte sacre famose per i coloratissimi dipinti parietali di animali, spesso coppie di femmine e maschi, gli archeologi hanno rinvenuto delle sculture di nudi femminili. Chiamate tuttora Veneri, queste figurine assai stilizzate dal corpo pingue sono oggi in genere ritenute antiche immagini dei poteri che donano e nutrono la vita, simboleggiati dalla vulva, dal ventre e dai seni femminili. Sulle pareti, le soglie e le altre superfici di queste grotte preistoriche, che probabilmente erano santuari in cui si svolgevano i riti religiosi, si vedono anche disegni, incisi o scolpiti sulla pietra, che fino a tempi piuttosto recenti gli archeologi hanno per lo più ignorato o liquidato come scarabocchi incomprensibili e privi di senso. Per contro, il significato di queste immagini diventa comprensibile, addirittura inequivocabile, se ci liberiamo dell'idea ancora diffusa secondo cui l'arte paleolitica delle grotte fu opera di uomini per altri uomini, da usarsi come una sorta di magia propiziatoria della caccia. Infatti, allora, soltanto riconosciamo questi scarabocchi per quello che sono, immagini incise o in rilievo della vagina femminile. Alcune di queste immagini sono naturalistiche, come le incisioni rinvenute nelle grotte di La Ferrassie, Perguset e la Linde. Altre sono più astratte o in forma di V, come le vulve sui profili dei due nudi femminili reclinati ritrovati alla Magdalene. Talvolta la vagina è aperta come un fiore in boccio, colta nel momento dell'eccitazione sessuale o del parto. Tal'altra è molto stilizzata, a forma di un triangolo capovolto. In altri casi ancora partecipa di una più ampia composizione assieme ad altre immagini, umane o animali, tra cui il fallo e a tacche, un tempo venivano sbrigativamente liquidate come segni indeterminati, che oggi sappiamo rappresentare delle sequenze temporali. Tra queste immagini del Paleolitico di particolare interesse risultano le forme allungate che furono in origine identificate dagli archeologi come armi dentate, in conformità con il modello dell'uomo cacciatore delle nostre origini culturali. Esse infatti illustrano in modo impressionante le distorsioni determinate da quella visione. Per esempio, quando nell'ultimo decennio dell'Ottocento l'Abbé Breuil, famoso paleontologo francese, rinvenne la cosiddetta mazza di Montgadier, un corno di renna inciso di circa 42 centimetri, ecco che cosa vi lesse lo studioso. Uno sgombro, due foche, due forme a serpentina, una serie di arpioni dentati e alcuni segni indeterminati, presumibilmente tutte immagini connesse a qualche forma di magia propiziatoria della caccia. Più di mezzo secolo dopo, un altro studioso, Alexander Marshank, osservò queste incisioni, ma con una lente di ingrandimento che consentiva di individuare meglio le parti consunte, e vide qualcosa di assai diverso, qualcosa che secondo le sue parole dava improvvisamente un significato nuovo alla composizione e all'arte dell'era glaciale. Grazie all'ingrandimento, lo sgombro risultò essere un salmone maschio adulto, dalle mascelle caratteristiche del periodo dell'accoppiamento o della fecondazione, un periodo della primavera in cui le foche seguono i salmoni di cui si nutrono. Il pesce e le foche, si avvide Marshank, rappresentavano anche segni in sequenza del tempo del ritorno della primavera. La stessa cosa valeva per le linee serpeggianti, che risultarono essere quei serpenti anfibi non velenosi che in primavera si risvegliano dall'ibernazione. Quanto ai segni indeterminati, si tratta in realtà del disegno schematico della testa di uno stambecco dalle corna mezzaluna, il quale pure ricompare a primavera. Un germoglio reso con grande raffinatezza, insieme con le radici e le prime foglie, e un fiore in boccio, che nell'arte preistorica talvolta è anche simbolo della vulva. Ancora più affascinanti, secondo le scoperte di Marshank, sui cosiddetti arpioni dentati. Queste incisioni lineari erano state in origine interpretate dagli archeologi come armi, o piuttosto come armi alla rovescia, perché i denti dell'arpione non solamente erano puntati nel senso sbagliato, ma costantemente mancavano il bersaglio. Alla fine l'archeologo francese André Leroy Gorin li classificò come segni maschili per via delle righe allungate che puntavano in alto. In realtà, a un più attento esame, risultarono essere qualcosa di molto diverso. Disegni schematici di piante, ancora un segno della primavera. Come scrive Marshank, visti al microscopio, era evidente che come arpioni erano assai improbabili. I denti erano rivolti in senso contrario e le punte della lunga asta si trovavano all'estremità sbagliata. Per contro, erano piante o rami perfetti, che crescevano secondo l'angolo giusto e nel modo giusto in cima a un lungo stelo. Marshank riuscì così a svelare non solamente il mistero di queste armi alla rovescia, ma anche un altro mistero che per gli archeologi prima di lui era stato a lungo un vero rompicapo. Perché mai nell'arte di una popolazione che viveva meno di caccia che non di raccolta erano così rare le immagini di piante? Questa rilettura lo portò a decifrare il significato della mazza di Montgaudier, altro nome non appropriato in quanto derivante dall'idea che un qualche capo l'avesse usata per dominare i suoi uomini e molte altre espressioni dell'arte paleolitica. Come scrive Marshank, le immagini presenti su questo antico oggetto poco o nulla hanno a che fare con la magia propiziatoria della caccia. Si tratta piuttosto di immagini storiate di creature i cui andirivieni e abitudini stagionali erano noti ai nostri antenati paleolitici e riflettevano il loro interesse per l'arrivo e la celebrazione della primavera o, come dice Marshank, la nascita del nuovo anno.